così semplice da non vedere cos'è il bene e il male, così fragile da spezzare, così facile da raccontare, così in pace da non sapere l'amicizia e l'amore, così che quando chiude gli occhi e comincia a volare su un cielo con il suo aquilone che ha il colore del mare e del glicine i suoi sorrisi e del vento l'odore delle mandorle il suo respiro e continua a sognare, a rincorrere i suoi ricordi e le stelle del cielo che ora sfilano in passo lento che accompagna il suo rimpianto. Sfidano il passo lento che accompagna il suo ritmo.